Potevo vedere anche 5 minuti. Dopodiché l'altro giorno ho collegato un FM, non mi ricordo che città era. Ho fatto il video, ho fatto su Facebook e l'ho mandato. Poi uno mi ha risposto un CB, cazzo. Ti ha preso in giro, ho detto vai, fate una cagata, gli ho detto, vai che. Ho detto 15 anni che non usi malattia, oh cazzo, mamma mia, dimmi una cosa da già se mi pigliavo per il culo, vai e fai il lavoro che devi fare, girami le palle, ho detto vai, mi ci ho fatto a fare il culo, e vergognati di ciò che stai dicendo, gli ho detto, cazzo. Oiaia. Boh, Antone, io mi stanno chiamando, devo mollare un attimino. Se ci sei ancora tra 5 minuti già ti chiamo perché mi devo spostare. Vabbè, già sono all'ascolto. Già è acceso, per farlo scaldare l'apparecchio. Perché l'apparecchio non lo stavo usando. Già sono qua, quando vuoi ti rispondo. Ehi, un attimo che vado a vedere cosa vogliono e poi già ritorno. D'accordo, fai pure. Автоматическая трансляция. Приготовьте записать номер телефона. Осуществляем полное техническое обслуживание автономных отопителей. Либаться, обеспечить доставку на нас. Установленных отопителей по самым оптимальным ценам. Ремонт ваших отопителей с гарантией 6 месяцев. Звоните новые и будут запчасти для Либаться и обеспечить. Телефон для связи 8-926-41-43. Eccoci qua, ci sei ancora Antonio? Esatto, sì. Eia. Adesso ho controllato, ne ho approfittato perché mi dava noia, ho detto se trasmetto con le onde stazionarie alte, e lo sai che cosa ho fatto? Dalla cucina ho spostato il cavo, come ho toccato sono scese un pochettino e mi sa che è svitato proprio lo spinotto, come dicevi. Te l'ho detto, quindi c'era lo spinotto mezzo sbollato, c'era questo visto lì. Senz'altro sì, hanno staccato e riagganciato lo spinotto e l'hanno agganciato male. E adesso è scesa a 1,5, stavo controllando, è scesa a 1,5 e quindi molto probabilmente è quello, poi più tardi salgo e me lo controllo bene, capito? La radio bene sta uscendo? Sì, 6,940 qua, come prima. Vuol dire che l'antenna già è a posto. Sì, te l'ho detto, era una questione di cavo. Adesso dopo me lo controllo bene, salgo su, mi sono procurato le chiavi, veloce, così salgo, me lo controllo, mi porto anche il pappagallino, così lo stringo senza esagerare, capito? Però a mano molte volte si svizza. Sì, ma ricordati di metterci una sua vulcanizzante e una sua isolante, se no sei punta a capo, magari ho svittato, è entrata acqua, ma così non mi è entrata acqua la pelle, lo sai, direttamente l'ha diventato il cavo, perché io non ho messo la stessa volta, hai capito? Quindi intanto dentro il cavo rigido, tutti dice, non sono trovato nel polo positivo l'acqua, quindi adesso questo cavo appena cambierò antenna, cambio cavo, cambio immediatamente, me lo compro nuovo e lo sigillo bene, hai capito? Con l'altro vocalizzante, dopodiché faccio il lavoro che devo fare, meno male la mantova è a posto, l'ho risistemata, è nuova, è riverniciata sotto, con l'alluminio, hai capito? E sopra non ho fatto niente, sopra a posto. quindi già fa contatto, non è quello il problema. Anzi, l'unica cosa da fare è metterci le viti dentro, mettere la Coca-Cola, in modo che toccano appena appena di ossigeno che c'è rimasto, in modo che le viti rimangano nuove. Questo lo fanno le Coca-Cola mentre insieme ai bulloncini e se la piglia in cu, tanto per quello che costano. Sì, sì, ma ne ho di quel nastro vulcanizzante. Capito, già ne ho, è che l'avevo tolto io perché volevo scollegarlo e l'avevo lasciato così, avevo messo solamente perché non c'entrasse acqua e non prendesse umidità, praticamente avevo messo una di quelle bustine sigillante chiusa con le fascette da la parte, diciamo, dove c'è la basetta dove è attaccato il PL, capito, al cavo. Strette bene le fascette, però le tolgo perché mi sa che si è svizzato quello, loro l'hanno spostato il cavo, capito, perché ho visto dal terrazzino che non è più dove scendeva prima, ma è sicuramente come lo hanno toccato, magari si è svizzato appena, quindi adesso me lo controllo. Come dire, sta tranquillo che ha staccato le fascette e ti hanno lasciato il capo con piede così com'era e capita l'attacco, quindi portati appena appena di CRC sopra, prima asciughi il piede, poi li passa appena per di CRC in modo da non farli ossidare al calcio, hai capito? Poi per il positivo già è tappato, già è saldato, quello non è problema. Sì, sì, sì, no, ma già ho tutto, però dopo salgo a controllarlo, però poi me lo faccio domani intorno a mezzogiorno che magari c'è più caldo e va meglio anche così tutto asciutto, capito? Niente, è meglio così, vuol dire che il cavo magari già non l'hanno danneggiato, cazzo mi stavo venendo, non per altro perché 20 metri di quel cavo lì costa un bel po' di soldi, capito? E andrò a me. E ti vedi il cavo costano un bel meno, non è costano 50 centesimi. Però meglio così, da accertarsi sempre che insomma che sia tutto a posto l'impianto, anche perché la radio la stavo usando poco in questo periodo e quindi niente, dai. L'altro giorno che ho provato a accendere non c'era nessuno, poi me ne sono passato in banda laterale e ho visto che c'era un bel po' di propagazione, gente che chiamava, ho risposto a uno e siamo passati su un altro canale e questo qua parlava dalla Scozia, capito, vicino ad Inverness dove c'è il Ben Nevis nella zona alta della Scozia, ci ho parlato per 5 minuti, capito, poi un po' stava scendendo eccetera, allora l'ho salutato, però vuol dire che l'antenna già pompa sempre. Ah vabbè, quello sì, no, io ho parlato con Stoccolma la verità, poi poco fa in FM c'era su 27200 in FM c'è un punto in radio, c'è, ho provato a chiamare, qualcuno mi ha risposto, poi stavo facendo di ex con un altro, l'ho lasciato stare, capito? E dopo ci provo ad andare a vedere se c'è qualcuno. E niente, da qui stasera proviamo se entra qualcuno. Penso di sì, non lo so. Aspetta, controllo se c'è il 27200, questo quello è il ponte radio, quello che usano i russi, gli ucraini. Aspetta un secondo, te lo dico subito. Sì, ci sono gli ucraini, ci sono, la Russia. Là. Però 27200 in FM. Poi ho provato, Antonino, non risponde nessuno. Carlo. Eia. Non è 27200. Ci sono andato su 27200, ma in AM o in FM? In FM sono, loro parlano di lì, la Russia, l'Ucraina, eccetera, eccetera. C'è un ponte, c'è lì. Aspetta che provo ad andarci, 27200, così. Eia, in FM. Ci sei? Ci sei, Anto? Ancora in FM, Antonio? No, sono in AM, sono. ogni tanto mi fa questo difetto di merda. E quale difetto? Non mi dà i fatti che mi deve dare. A volte me li dà, a volte non me li dà, dipende dal giorno, ragazzi, quanto. Se la taglia bagnata, mi dà un po' bombe, se la taglia è asciutta, boh. Dillo mio, ho trovato il nastro vulcanizzante. E ce n'è qua. Ah, cioè, va bene. Adesso con 10 watt, figurati. Oh, Anto, io mi metto a fare questa roba adesso, dai, poi riprendo più tardi se ci sei, dai, per il momento ti saluto, ben sentito, mi ha fatto piacere scambiare quattro chiacchiere, insomma, e anche i controlli e i consigli mi sono stati utili. Ci sentiamo più tardi, Antonè, così mi sistemo bene questa cosa. C'ho in pratica il tubo che è ruggiroso, dove ho messo questa antenna qua, e quindi l'antenna va in protezione, l'apparecchio va in protezione, cioè l'antenna va in protezione, l'apparecchio va in protezione, quindi in contatto non mi fa male. Se invece piove, pompa come un tubo, pompa. E cos'è il problema? Bisogna che sacco sotto e con una spazzola pulisco il tubo dallo, cioè dalla ruggine più che altro. Va bene, là, già sono l'ascolto. Ehi, a più tardi, Antone, ciao ciao, a dopo. Ehi, a dopo, ci sentiamo. Adesso mi vesto e fra poco me ne esco. Fai bene, fai bene. stamattina il mio freddo qui in Veneto non ti dico nulla, quindi adesso sono a casa, mi sto sistemando il frigo e lo stavo pulendo, così me lo vermicchio e me lo tengo di riserva. Che frigo di fuori? Frigorifero due porte, freezer e frigo normale. Ah, ce l'hanno uno in più. Ce l'ho uno in più infatti. Giovanni mi ha comprato una Kai, ma comprando e l'altro stavo per buttarcelo, poi ho pensato ma cosa cazzo butta a fare? Me lo tengo di riserva, mi vernicchio appena appena, come si chiama, la parte di sotto in bianco, ho comprato la vernice spray e me lo tengo per l'estate. Quando vado a farmi la spesa, se non c'è stata una parte ce lo metto all'altra e ne accendo due frigo, così sono tranquillo, così non devo stare ogni volta a comprarmi la roba a pezzi, capito? Sì, quello già è vero, io ci avevo il pozzetto, quello regalato, perché consumano, mi sono lasciato, quel pozzetto consumano. L'ho regalato a un istituto di ex toci, c'è roba del genere, l'ho regalato di... No, io l'avevo regalato lo stesso il pozzetto, ce l'avevo in garage parecchio tempo fa, capito? Poi quando c'avevo tutta quella roba piena di garage, pieno di trapozzetto, pezzi di frigo, televisori, cose del genere, ho preso e ho regalato tutto. Quello che c'era funzionante, ho preso me, e quello che mi ha portato via la mondezza, ho detto fa la cosa, portati tutto via, ti pago, ci butti quello che c'è da buttare, il resto che funziona te lo stili, non me ne frega niente. E così ho fatto, l'ho regalato, il pozzetto, l'ho regalato, che aveva comprato babbo 3 anni prima, era nuovo nuovo era. Hai capito? E poi ho preso il garage, l'ho svuotato e l'ho affittato. Ah, non lo stai utilizzando il garage? No, oh, è affittato il garage che ho io, il mio, capito? L'ho affittato. Cosa me ne facevo? Tutto, era tutto pieno di mondezza, avevo impegnato bene. Ho fatto 4 viaggi e mezzo di utilità, televisori, pezzi di frigo, eccetera, eccetera, completi. C'era un frigo grande che era alto quasi 1,20 m. Anche quello ho regalato. Io ho spostato via tutto, quello là. Sapere niente, quello che funziona tutti, il resto gli ho detto ti pago e ce lo butti alla... ha fatto 4 viaggi ha fatto, figurati tu, in molta carrozzella. Sì, vabbè, almeno qualche cosa ti rende, dai, qualche cosa la guadagni. Sì, quello sì, vabbè, qualcosa già mi rende ogni mese, ce l'ho di riserva, capito? Sono soldi che mi rimangono più che altro di riserva, capito? Già lo sai com'è la questione dell'inclusione sociale, se rimani, lo prendi per 12 euro oppure 18 mesi, cioè, e poi rimani un bel senza nulla, quindi con quello che guadagno dal garage riesco ad arrivare a fine mese, perché mi metto i soldi da parte, capito? E almeno si tappa il buco, sì sì. Infatti poi adesso già lo sai che c'è il reddito di coesione sociale della regione, quindi almeno quello te lo danno tutti i mesi, vai in banca, lo ritiri e sei a posto e non stai senza niente. Invece quello là devi rimanere un mese senza nulla e aspettare poi, capito, che te lo rinnovino. Ah, in mezzo e mezzo lo rinnovava. Adesso io ce l'ho per 18 mesi, dopodiché c'è un mese di buco e poi per altri 12 mesi, poi non si sa se che ha fatto domanda per la pensione, se io che Simona via avere, se gliela danno a lei, se gliela danno anche a me, non lo so, è tutto da vedere ancora, anche perché per fare tutta la pratica e cose del genere ci passa un bel po' di tempo, perché visitare, già lo sai che bisogna, se vai a pagamento le fai subito, se aspetti il CUP ci passano 6 mesi, un anno e mezzo. E io sono 5 mesi che ci aspettavo per fare il tuo cambiogramma. Io devo fare una pista solo, l'ultima, e poi consiglio tutto. Se me la danno è bene, se non la danno se la pigliano un culo. Ma devo stare a rompermi le balle così, secondo me, capito? Per l'invalidità, sì. E c'ho il 65%, voglio arrivare almeno al 100%, se va arrivo, ma sarà di molto difficile, già lo sai come fanno. La commissione è commissione, no? Se c'è conoscenze te la danno. Sì, io sono 80% lì, ma ho diverse patologie, quindi ho diabete, insomma. Mi hanno operato delle gambe e degli occhi, insomma, sono un po' giù. Perché non sono messo male, io c'ho la parte sinistra del cervello che ha scoperto un nuovo disastro e ha scoperto che c'ho un trauma. Quello di anche io mi ha detto non c'avevo niente, hai capito? Ho speso 20 euro per andare in benzina e cosa ce l'avevo saputo, mi sarei comprato i panini lì. Da Milese mi sarei fatto un giretto, mi sarei mangiato i panini, posso fare prendere per il culo uno scemo. Insomma, voglio sentire parlare di tutti, perché uno solo non basta. Infatti, se ne accorta quando mi ha fatto l'esame, e mi ha detto che c'era problemi nella parte sinistra, dove in pratica ho preso il colpo lì al centro storico, te lo ricordi, quel tubo famoso, capitavo lì, e mi è sceso in testa. C'è un trauma lì e devono controllarmi, capito? Devo fare l'ultimo esame e sono a posto, poi consegno tutto. Quelle sono le corna che stanno spuntando. Magari. E ben male. Buonasera a tutti, ho sentito, sono entrato, non so chi ci sia, finalmente c'è qualcuno anzi in radio. Io adesso siamo, gli ascoltori, ciao Marco. Dai, ma io sto per andare via perché devo uscire stanotte, quindi devo preparare, devono venire a prendermi, dai. Ah, ok, a ciuppare? Karaoke! Ah, ok, va bene. Leia, e tu Antone come va? Finalmente sono arrivate queste batterie per il mezzo. Sto aspettando che le ha ordinate a cosa? A Mazia. 2 settimane fa. Sto aspettando la risposta perché le ha trovate, però cazzo costavano quasi 300 euro l'una. Hai capito? E quindi sta andando in un altro sito e per vedere se trova che costano di meno. Va bene. E poi sabato, oggi era una bella giornata, almeno mattina, pomeriggio, anche a metà serata, poi si sta un po' nuvolando, ma forse non piove, per oggi non piove. Era una bella giornata, quindi chi poi è andato fuori, io lo stesso sono tornato un pomeriggio inoltrato, diciamo, dai. Anch'io ho fatto un bel giro. No, io sono uscito stamattina per fare 9:15. Cazzo, ma c'avevo un freddo a mani, non ti dico una merda, mi stavo tremando anche con il giubbotto. Poi ho cominciato a fare un pochino più di caldo verso le 11 mezzogiorno e si stava bene, capito? In giubbotto, anche con il giubbotto aperto. Vento già non ce n'era, meno male, almeno quello, almeno una volta. Aspetta, già, ripeti che avete parlato insieme. Ho detto che mi sta sentendo, dai, continuate voi che vi ascolto. Eia, preparati, qua sta interferendo, c'è un ricevitore vicino, sta interferendo. Che strano, vabbè. Vabbè, quindi poi ero un po' stanchetto, stanotte penso che dormirò già da prima, dai. Mi stavo ascoltando musica, così dai, così la giornata è fatta. Stavo qui, mi attacco alla TV, mi metto qualche film mio e roba del genere, dai. Ah, quindi rimane a casa, non si è uscito stasera? Sì, sono uscito tra stamattina e pomeriggio, metà serata ero a casa, poi vabbè, quando che sono uscito di notte l'altro ieri, non ieri, l'altro ieri sono uscito, sì. Fare il solito giro, eccetera. Ah, a fare il canotte. Che ho... Aspetta, come cazzo si chiama? C'è Roberto Bandito che sta facendo i DJ, non mi ricordo in quale locale sia, è in Viale Adua mi pare che, nel locale che c'è lì in Viale Adua. Ah, Viale Adua, ma un locale, quello che una volta era un bar, o è tutto un bar che fa musica? Adesso non mi ricordo il nome, come si chiama, la verità. Sta facendo con quelli, dovrebbe essere quello dove c'erano le poste prima, non lo so, c'era un negozio di cinesi, sta facendo karaoke lì, sta facendo sabato e domenica, karaoke, penso, è lui che mette musica col corso, col vinile, eccetera, eccetera, musica anni 80 e roba varia. Bella roba anni 80, dai, per chi ha la nostra età è un bel revival. Ho capito, il negozio di cinesi dove si trovava, sì, mi ricordo, vicino c'era anche una mia ex assicurazione lì dietro. Va bene. Roberto Bandito era un CB, no, durava al baracchino 40 anni fa, mi ricordo, questo nominativo me lo ricordo. 40 no, ma penso una trentina, sì. Capito. Abita a Sassari di nuovo, è andato in pensione, si è rientrato qua in città, e abita non so dove, e si sta godendo la pensione, poi si fa quel lavoretto lì, sabato e domenica fa musica, capito? Lì, in quel bar, così si fa un po' di spiccioli in più. Almeno passa l'ora, cosa vuoi che faccia? Uno è giovane, non ti credo che abbia l'età mia. Io penso che abbia almeno 45-50 anni, non di più. Eppure me lo ricordo, caspita, quando sono entrato io erano gli anni 80, io 84, poi ho conosciuto te, siamo lì, molto all'inizio, me lo ricordo già questo nominativo, e sono passati da 84 ben 40 anni, eh sì, 84, 2024, ho fatto il conto. È così. Beh, allora con bassa ora, capito? Ma invece mi sono attirato, ho fatto una passeggiata, adesso ho fatto un po' appena di spesa, poi sono uscito, ho cucinato, eccetera, eccetera. Poco fa mi sono preso un coso, ce l'ho salendo scendendo, cazzo. Uno yogurt di cui della fragola, mamma mia. Mi sono preso da fare per digerire. Prima mi sono preso lo yogurt, poi ho bevuto l'acqua fredda, l'acqua del tubiletto non è calda, no? È ghiacciata questo pezzo di acqua, bisogna scaldarla nel termosifone per poterla bere. Però di rubinetto possibilmente non berla, non spesso, io da bere ho l'acqua naturale in bottiglia. O gasata, però cioè naturale ce l'abbiamo in bottiglia, anche per la caffettiera non ne metto nemmeno più acqua di rubinetto, non mi va, ogni tanto trovo nitriti, nitrati, quant'altro, roba chimica, pesche di chiacoli, di tutto c'è. Ah, c'ho l'apparecchio dell'acqua farma, io quindi uso quello, capito? L'acqua c'ha il filtro, viene filtrata e c'ho l'acqua come ci deve pulita. Se invece la prendo dal rubinetto c'ha dolore di buffa, figurati tu. Quella col cazzo la bevo. La uso solo me per cucinare, la faccio bollire prima e poi ci butto la pasta. O quello che c'è da fare. Per bere acqua farma 8-5 euro ogni mese fino al 2027, almeno non crepo di buffa. E da molto ci siete in radio? No, sarà 10 minuti, non so che e quindi poca roba, vabbè, poi sabato e domenica è anche peggio, ho notato che entra ancora meno gente, ho detto chi può va fuori, come giusto che sia, anzi guarda, questo sabato ci ha graziato il tempo, ci ha graziato per fortuna, però dice che potrebbe peggiorare già da domani. Vabbè, pazienza. Ti ricordi quei giorni prima della pioggia, di quest'ultima pioggia, i giorni di tempo stabile, di sole, di caldo abnorme per essere febbraio? Io ho registrato un giorno che c'erano 18 gradi all'ombra, naturalmente, no, 18 gradi a metà febbraio, una cosa incredibile. Ormai è un casino, non si capisce più niente, un po' piove, un po' fa freddo, un po' fa caldo, ti fa 4-5 giorni di caldo, 20 gradi, figurati tu, nevica, poi piove, poi fa freddo, sono super denudato, quando esci devi stare molto attento adesso, perché a seconda della passeggiata che ti fai, ne ritorni tutto buco male, capito? Se il giorno prima hai preso caldo, dove hai attirato, sei bello che fu tutto, oppure la mattina esci, c'è un freddo cane, verso le 11 mezzogiorno c'è un caldo che ti deve tutto su, ti devi scoprire, e lì ti frega, perché poi dalle 5 metri in poi incomincia a scendere questa umidità e questo freddo, quindi ti credo, hai capito? Marto Pazzarello, vedi il sole, prendi l'ombrello. Eia, anche quello è vero. Però più che altro è lo smalto termico, come ha detto Antonello, se esci presto c'è freddo, poi comincia a alzarsi il sole nelle giornate assolate, ti devi vestire a buccia, mi hai capito? Una maglietta, una camicia, una felpa e il giubbotto se necessario, e mano a mano che si scalda la giornata ti togli la roba, vabbè, se sei in macchina la lasci in macchina, e se sei in moto, vabbè, c'è il bauletto, chi ce l'ha, bene o male ti puoi scoprire un po', con cautela però. Oh Gianni, l'avevi più usata il baracchino in macchina, l'antenna da macchina, quella buona che avevi scoperto, polacca? Sì, anche da poco l'ho usato, sì, e diciamo che adesso c'è poca gente, sto entrando poco, però da poco l'ho attaccata, l'ho usata, ci ho parlato con, c'era Giulio, c'era altra gente. Ehi, vabbè, era per sapere di quell'antenna, se qualcuno l'aveva comprata uguale per... quella lì è praticamente era, come dire, la coppia di quella che avevo io, oppure viceversa la mia era la coppia di quella. Il progetto è buono, però non sono tutti uguali, perché io ne ho presa una uguale alla mia, no? Che la mia è della Midland, è marcata Telecom, aveva almeno un Santiago di perdita, messa sulla stessa base, già preparata per quella base, avvitata una, tolta l'altra, e c'era un Santiago di differenza, sembravano uguali esternamente tutto, e invece le magagne saltano fuori, quindi quelle Telecom non sono da prendere. Guarda, qua so se ce l'abbiamo io e Salvini e basta, non c'era nessun altro. E lui si è trovato bene lo stesso, no? E lui che me l'ha consigliata, lui l'aveva regalata un amico che stavamo svoltando un garage, eccetera, non trovato quest'altra, gliel'aveva regalata. E adesso se vedi, lui già va benissimo, io vado fuori, non mi salta, cammino con la macchina, non mi salta, anche con la base magnetica, perché c'è la base magnetica di suo proprio, capito? Te la vendono già con la base magnetica. Eia. Ascolta Gianni, elettrauto ne conosci validi? Cioè devo fare una fesseria, dovrei ripassare il cavo batteria, cioè il cavo che va dalla batteria all'abitacolo, il cavo diretto alla batteria, perché già lo sapevi che l'elettrauto, quello di via Catrocchino, dov'era, era morto da tempo, quello sì che ti faceva le cose in fretta. Quello del monte da cui mi avevano mandato non aveva gana, non aveva gana proprio. No, quello lascio perdere. Allora, io ti consiglierei di andare da Poldi, che è quello che fa gli impianti stereo. A me me l'aveva fatto lui, mi ha messo fili grossi, tutto qua, doveva preso 50 euro e mi aveva messo un filo grosso, proprio quello per gli impianti, quella piattina grossa, e mi ha fatto un bel lavoro, vai. Non si vede nulla, tutto fatto bene, tutto fascettato, di lusso, dai. Eia, che poi l'avrei fatto io, ma a me manca quella che chiamano sonda o come si chiama, praticamente un'asta con una cruna, una specie di cruna tipo lago, tu passi un pezzo di cavo lì e lui tra il mazzo di cavi che entra nell'abitacolo trova un po' di spazio e lo inserisce, capito? Se no l'avrei fatto io se avessi avuto quel tipo di asta lì, mi pare si chiami sonda, non sono sicuro. Sono stato stupido perché si è lesionato il vecchio cavo e io l'ho tirato via senza, potevo già collegarci il cavo nuovo, nastrando o tirare, e quindi puoi togliere il vecchio e tenere il nuovo, invece ne ho stracciato tutto e pazienza. Ovviamente lo farei mettere sotto fusibile, ci mancherebbe, quello ci vuole. Tu ti fa tutto, ti metti tutto. Allora praticamente l'indirizzo è via Montello, codice via Montello, impianti Wi-Fi, e devi prenderti l'appuntamento, ti dà l'appuntamento e te lo fa il giorno stesso, anche davanti a te. Ok, sì, perché poi è una cosa elementare da fare. Poi le banane femmina me le metto io, le banane, basta che lui me le isoli, il cavo rosso e nero, e le banane femmina le metto io, che ho attaccato il baracchino e ci riattacco. Quando servirà, se ne vale la pena, dai. Comunque è meglio averlo il cavo diretto. E ti dirò, non lo metto nemmeno troppo grosso, io me ne metto uno che tenga senza fatica 10 ampere. Non metto nemmeno cavi da 20-30 ampere, quelli enormi, no. Guarda, se mi garantisce 10 ampere continui, va bene. E a parlare con lui c'ha le matasse di cavo, capito? Tu te le scegli, quello che vuoi e tu te lo metti. C'ha il riso, c'ha tutto, per gli impianti stereo, subwoofer, di tutto e di più. C'hanno anche il coso, come si chiama, dove riparano gli apparecchi, capito? Sì, è un tecnico, capito, quindi sa fare tutto, non ti preoccupare, sono due fratelli, uno che vende e l'altro che piazza. L'unica cosa che c'è che devi scendere giù, c'è un garage, devi fare un po' di curvette per scendere, e vabbè, comunque è una cosa facile, dai, già. Io ce la faccio con quella macchina tranquilla. Se vedi dove sono passato io a Sorso l'altro giorno, cazzo, ti metti le mani in testa, la macchina non passava, quanto era stretta la via e c'erano macchine parcheggiate, ho dovuto chiudere lo specchietto per passare. Lo fanno, anche in via del centro, Sassari e roba del genere, cioè manco a parcheggiare lì, come fanno a parcheggiare in certe vie bloccando il passaggio degli altri poi, boh. Antonello, riprendi. Marco, vi devo lasciare, dai, vi saluto che mi devo vestire ancora. Ciao, ci sentiamo, buona serata e buona continuazione. Mi dispiace, ma devo venire a prendermi, dai. Tranquillo già, quando capiterà che ci sentiremo al baracchino, dai. Io sono molto assente, d'altronde, ma le priorità sono altre. Ciao, buona serata Gianni. A vai Antonè. Ciao Gianni, ci sentiamo, buon divertimento, buon tutto, c'è tutto bene. Cava. Quindi ti hai tracciato il cavetto. Dal vano motore va sotto come si chiama? Che entra dentro l'abitacolo. Ci sono i gommini, ci sono, dimmi. Basta che controlli lì il tappetino sotto la bocchetta, come si chiama? Ci sono i gommini. E ti passi il capo, non è che ci vogliamo questo granché, io uno due è passato nella 1, nella quando facevo l'impianto stereo. Perché in certe macchine, diciamo, dove c'è quel gommino a fondo, quello blu, no, dove passano tutti i cavi che poi vanno al cruscotto, no? In certi riesce a infilarci qualcosa, magari un po' di spazio in più c'è, in certi invece è pressato, non ci passa uno spillo, a meno che non abbia questa sonda, piano piano si fa strada sulla guarnizione con l'anello in gomma di tenuta, allora riesce a far passare il cavo. È così, dai. Va bene. E quando dove dalla parte del guidatore, quello che hai detto tu, c'è la, i cavi passano lì dove ci sono i fusibili, capito? Ma passano anche dall'altra parte, devi solamente cercare il gommino, la potenza della parte del guidatore dall'altra parte, che gli fai un foro, li fai con un coso, con una forbice. E ci passi il capo, non è che ci voglia questo granché, poi li fai passare sotto, da sotto tappetino, poi dalla parte lo fai girare la, e ce lo metti sotto lo stereo, lo fai uscire, lo, dove piace a te in pratica. Per non utilizzare le, come si chiama, i capi delle cose, dell'acido di sigari, perché il cavo c'è in pratica, ce l'hai già pronto, cioè con l'acido di sigari, e stacchi l'acido di sigari, ti colleghi due fili da lì e stai andando. Ehi, non accendi i sigari, fa troppi giri, finché c'è un baracchino banale, da pochi watt, oddio, non dovrebbe dare problemi, però sai, quando ci metti un 747, quello vuole la corrente della batteria, è meglio, più diretto, anzi il cavo più corto è, meglio è, lo raccomandavano, lo sai, sull'RM Italy 203 alias 747, dice il cavo di collegamento alla batteria deve essere il più corto possibile per evitare dispersioni o rientri, che cavolo ne so io. Ah no, se lo devi usare il legnale ti conviene direttamente dalla batteria diretta, cavo grosso, poi quando arrivo all'interno non fai altro che agganciarli un cavo a baracchino, un altro al lineare, oppure ne metti quattro di cavo, potrebbe essere due, ne metti quattro e collegate alla batteria, ci metti due fusibili, uno da 10 e l'altro da 3 ampere, anzi più di 10-15 per essere più sicuri per il lineare, capito? E l'altro lo puoi lasciare da 3 ampere, che avanza per il baracchino. Eia, allora in un caso avevo rilevato, no, e me ne sono accorto giusto perché avevo il rosmetro collegato, allora attaccando, cioè dalla batteria diretto, no, il baracchino attaccato alla batteria diretto, le stazionarie erano buone, l'antenna era tarata eccetera, poi ho voluto fare una prova, ho attaccato i cavi del baracchino all'attacco accendisigari, no, con l'adattatore. Beh, attaccando l'accendisigari mi cambiava le stazionarie, pensa, cioè bastava quel poco di cablaggio in più che passa lì chissà dove e mi alterava un po' le stazionarie, certo non tantissimo, di poco, però lo faceva. Sì, una volta bastava la guarda, anche passare i due più e poi collegare i due litri alla carrozzeria, una volta si faceva così per il baracchino, anzi facevano così per il baracchino, solo che quando mettevi in moto sentivi in pratica il motorino d'avviamento, sentivi quando mettevi in moto, pure le scariche elettriche del motore, quindi non andava bene, l'unica cosa era agganciare la batteria, capito? E comunque a seconda di che macchina hai, di che motore hai, i rumorini ne entrano lo stesso, perché anche l'alternatore carica la batteria stessa, il regolatore di corrente, quello che è insomma. E quindi poi questi baracchini nuovi sono una fabbrica di rumori incredibili, invece il 3009 è quello più umano, dai, che da portare in macchina, è un barasone però è il più umano, tecnologia vecchia, cioè componenti classici, però è il più silenzioso, dai, di tutti, e quindi è il mio prediletto in macchina. Ah, quello sì, di certo non ci puoi mettere cazzo in moto il 140, no, cazzo, allora glielo fai da fare, cazzo, appena metti in moto si sente il moto di avviamento. E l'avevo anche fatto, in un paio d'occasioni l'avevo anche fatto, messo sul sedile, però usavo in ricezione, ovviamente solo in ricezione, da fermo. E con l'antenna tarata, quella multibanda Proxel, prendeva bene, riceveva bene. Caspita, certo se accendevi la macchina cominciava il... Sono portato in costi a 140 con la magnetica, amico. E io ho detto sono andato in Corsica insieme a Daniele e in pratica il tempo sono messo sotto al sedile perché avevo la paura che mi fermavano i carabinieri o cosa del genere. Allora ci ho messo sotto al sedile, capito? E quindi ero più tranquillo. L'unica cosa che usciva sotto al sedile era il microfono, normale, e basta.